Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo chiaramente anche del Monte dei Paschi, non tanto per l'andamento del titolo in borsa, più 0,80% in questo momento, quanto perché dopo che si è saputo che ieri vi era stato un incontro segreto, finché non si è saputo, tra il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi e il Ministro all'Economia Vittorio Grilli, oggi un incontro a Milano, il Ministro è intervenuto prima in mattinata al Tesoro, vi è stata la riunione del Comitato per la Stabilità Finanziaria a cui hanno partecipato anche il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il Presidente della Consob Giuseppe Vegas e il Presidente dell'IVAS, che è la neo autorità di vigilanza sulle assicurazioni, Fabrizio Saccomanni. Poi nel pomeriggio è stato ascoltato il ministro Vittorio Grilli sulla vicenda Monte dei Paschi alle commissioni finanze del Senato e della Camera e ha reso varie dichiarazioni Grilli, poi le ascolteremo quasi tutte nella seconda ora del programma. Vi anticipo che ha detto che si deve tenere distinta la responsabilità del singolo rispetto alla responsabilità della banca, che non è che i 3 miliardi e 9 dati dalla legge Monti non sono un contributo fondo perduto, ma ha ricordato un prestito anche oneroso, nel senso che costa al Monte dei Paschi il 9% di interessi e che aumenta dallo 0,5 ogni due esercizi. E poi ha detto attenzione, Non è un salvataggio quello che abbiamo fatto, sì, è un'operazione per rafforzare il capitale della banca, e ha definito attenta e appropriata la vigilanza della Banca d'Italia. Tutto bene quindi? No, perché si continua a indagare sul fronte anche della magistratura e quindi la Procura di Siena prosegue le sue indagini, in particolare sull'acquisizione di Anton Veneta sul sovrapprezzo pagato. È uscita ieri la notizia obiettivamente sconvolgente di 8 bonifici in 11 mesi per un totale di 17 miliardi di euro, di cui solo una parte, 9 miliardi, utilizzati per l'acquisizione di Anton Veneta. Si sta indagando anche sull'ipotesi di truffa, Baldassarri, ma anche l'ex numero uno Mussari, e sul ruolo avuto da molte altre banche advisor, come dicono quelli che hanno studiato, che facevano da consulenti. E quindi chi e quanti ci hanno guadagnato da tutto questo insieme di operazioni spregiudicate del Monte dei Paschi, e l'ipotesi sullo sfondo che tutto questo giro di operazioni sia servito anche ad alimentare tangenti per un controvalore complessivo di almeno un miliardo. E qui ci sono le indagini parallele di cui ci parlava anche la nostra Raffaella Calandra ieri della Procura di Milano. Quindi tutto bene, direi proprio di no. Di questo parleremo nella seconda ora del programma, però prima di partire subito con le headlines vi farei sentire che cosa ha detto il ministro Grilli proprio sulla vigilanza della Banca d'Italia. E cioè, ricorderete che quando è esploso lo scandalo vi è stata una prima tensione tra Grilli e la Banca d'Italia, un botta e risposta. Oggi su questo Grilli ha voluto essere gettare acqua sul fuoco, appunto una vigilanza attenta e appropriata. Anche grazie alle informazioni fornitemi dal governatore della Banca d'Italia in una relazione che lascerò agli atti a disposizione della Commissione, a mio parere l'azione di vigilanza sul Monte dei Paschi e sulla Fondazione è stata continua, attenta, appropriata, via via intensificatasi negli anni, con un'azione ispettiva e di vigilanza in generale da parte della Banca d'Italia, iniziata nel 2010 con l'allora governatore Draghi e proseguita nel 2011 e nel 2012, oggi ancora nel 2013 con il governatore Visco. E poco fa il Comitato di Stabilità ha detto, il Comitato per la Stabilità Finanziaria ha detto che la banca è solida, non vi è un rischio di un effetto sistemico. Ho capito, però intanto indagano due procure. No, lo dico perché adesso sembra quasi a momenti che abbiamo esagerato noi sul Monte dei Paschi. Ripeto, ne parleremo perché c'è chi sostiene che in realtà i problemi nel Monte dei Paschi non nascano semplicemente nel 2007 con l'acquisizione strapagata dell'Anton Veneta, ma addirittura nel 99, quando vi fu un'operazione che già lasciava delineare qualche ombra su che cosa muoveva la banca, l'acquisizione della banca 121, qualcuno se lo ricorda, anche perché poi finì uno scandalo memorabile, e da lì tutto un insieme di errori poi negli anni a seguire. Detto questo, come va la borsa? Meno 0,18% Milano è tra le peggiori, seppur appunto in maniera modesta. Parigi è invariata, Francoforte è invariata, Londra più 0,56, l'America più 0,20. Euro in rafforzamento 1,34,76, di nuovo forte A2A più 4%, Mediaset più 2,30, Ansaldo più 1,60, Popolare Emilia Romagna più 1,40 come Parmalat ed Enel, lo 0,90 lo guadagna di Assorin, lo 0,80 appunto il Monte dei Paschi. Chi perde? Saipem il 3,90, Ferragamo il 2,20, Fiat il 2% come Autogrill, Campari meno 1,80, Estima Microelectronics meno 1,60 come Exor, l'1,30 lo perde invece Buzzi Unicem, l'1,20 Mediolanum ma anche Todds. Veniamo ai temi di carattere internazionale, a partire dal petrolio che è in leggero rialzo, $97 al barile, però oggi la benzina in Italia ha ripreso la sua corsa, più 0,1 euro al litro, siamo a 1,825 euro, questo è il prezzo diffuso, la media ponderata nazionale, siamo a 0,1 centesimi in più, mentre oggi Esso ha disposto un aumento dei prezzi per la verde di 0,5 centesimi al litro. Buone notizie per quello che riguarda i paesi della periferia dell'euro, come si chiamano, anche se insomma mi sembra che Spagna e Italia siano proprio la periferia dell'euro. Perché sono tornati 100 miliardi di dollari, parte dei capitali che erano scappati durante l'attacco all'euro e ai debiti di questi paesi. Lo ha fatto notare oggi ING, in una stima che poi è stata riportata dal Financial Times. 100 miliardi di fondi privati sono affluiti nei paesi della periferia dell'area euro, tra cui appunto Spagna, Italia, Portogallo, Irlanda e Grecia. Praticamente un flusso di capitali pari al 9% dell'intera produzione economica di questi paesi. E il Tesoro oggi ha fatto un'asta, ha fatto anche il pieno in questa asta di bot a 6 mesi, quindi buonissima la domanda, buono anche il rendimento offerto, quindi è sceso e ci è costato meno trovare compratori per il nostro debito. Dallo 0,94% di rendimento che avevamo offerto a fine dicembre siamo scesi allo 0,70%. Domanda superiore di una volta e mezzo all'offerta. E il tasso di rendimento dei bot a 6 mesi a questo punto è il più basso dal marzo del 2010. In tema europeo fanno discutere anche a livello politico le parole del commissario europeo Olli Rehn, che ha detto attenzione, il 2013 sarà un anno essenziale per la credibilità dell'Unione Europea, ma poi parlando della competitività ha detto che va ripristinata la competitività dell'industria europea. Parlando però, dicevo, dell'Italia, ha detto un anno fa avevamo serie preoccupazioni sull'Italia, nel 2011 Berlusconi non rispettò gli impegni dell'Unione Europea, il commissario europeo Tajani ha detto di dissociarsi e di essere rammaricato per queste dichiarazioni, ma sentiamo l'Iren. One year ago there was profound uncertainty over Greece. Un anno fa, rispetto a oggi, c'era una profonda incertezza riguardo la Grecia e c'erano serie preoccupazioni per Italia e Spagna. Gli effetti delle iniezioni di liquidità da parte della Banca Centrale Europea dovevano essere ancora avvertiti dall'economia reale. Forse ricordate le innumerevoli Cassandre o i profeti di sventura che predicevano la fine dell'Eurozona. Ma il 2012 si è rivelato un anno decisivo in cui la zona euro ha dimostrato la sua resistenza politica prendendo molte decisioni coraggiose, decisioni necessarie per assicurarne la stabilità e la sostenibilità. Oggi i fantasmi di una fine dell'euro o di una Grexit sono virtualmente o completamente spariti, ma nonostante alcuni progressi restano ancora sfide importanti, come per esempio gli alti tassi di disoccupazione e un'economia ancora lenta. Per cui oggi non c'è alcun spazio per la compiacenza. Dobbiamo essere determinati e agire concretamente per favorire la crescita e l'occupazione. Dobbiamo lavorare sodo per arrivare a politiche che stabilizzino l'economia. And we must work hard. Policies are required in order to stabilize the economy. Passiamo all'Italia, ma non per parlare di Monte dei Paschi, ripeto, ne parleremo poi nella seconda ora del programma. Oggi è stato presentato il cosiddetto piano nazionale degli aeroporti, 31 aeroporti di interesse nazionale, tra cui Malpensa, Fiumicino e Venezia, che saranno oggetto di interventi infrastrutturali. Nessun nuovo scalo verrà aperto. Gli scali non di interesse nazionale dovranno essere trasferiti alle regioni competenti, che ne valuteranno la diversa destinazione d'uso e o la possibilità di chiusura. Non è invece prevista la realizzazione di nuovi scali, dicevo, quindi per fortuna, aggiungo io, non verranno realizzati quelli di Grazzanise e di Viterbo. E il ministro uscente Passera ha detto che con questo atto di indirizzo viene colmata la lacuna che durava da 26 anni. La nostra Anna Marino ha intervistato Vito Riggio, che è il presidente dell'ENAC, dell'autorità di controllo del traffico aereo, e il quale ha detto, insomma, è da anni che non si faceva una pianificazione vera e propria in questo paese del sistema aeroportuale. La pianificazione in Italia non ha mai goduto di una buona vita, perché dopo i primi tentativi degli anni 60 si è preferito lasciar correre, insomma, no, non credendo nel piano. È ovvio che questi piani sono piani di nuova generazione, cioè flessibili, rivedibili, però danno un quadro di certezze di cui c'era un grande bisogno, soprattutto nel settore del trasporto aereo, che essendo completamente liberalizzato ha bisogno che ci sia una qualche capacità di regolazione per orientare soprattutto il flusso degli investimenti. Quali sono i termini più importanti, le regole più importanti, gli orari o che altro? Prima di tutto la scelta che il governo fa di non costruire più nuovi aeroporti, no? Quindi, diciamo, proseguendo una pratica che negli ultimi 10 anni ha visto l'ENAC impegnato solo a razionalizzare gli esistenti, a non favorire spinte localistiche per nuovi aeroporti. Secondo, di stabilire quali sono gli aeroporti di interesse nazionale, quindi una rete nazionale di aeroporti, per cui rispetto ai 47 che noi abbiamo censito aperti al traffico commerciale, 31 sono di interesse nazionale e altri 16 gradualmente si trasferiranno alle regioni, perché le regioni decidano se tenerli, come tenerli e che cosa, diciamo, farne, specializzandoli fondamentalmente, sono piccoli aeroporti. E la terza cosa è che si concentrano gli investimenti ovviamente sugli aeroporti di rete nazionale, mettendo insieme a sistema anche aeroporti che oggi stanno, diciamo, in maniera isolata. Ancora una notizia riguarda l'Ilva. Mentre Federacciai ha chiesto che non venga chiusa prima del processo, lo ha affermato il presidente Federacciai Antonio Gozzi, la Corte Costituzionale, per voce del neopresidente Franco Gallo, ha detto che cercherà di accelerare il più possibile i tempi e ha riunito i due ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sul disegno di legge e sulla legge Salva Ilva, in modo da avere tempi più celeri. Dovrebbe l'udienza sull'ammissibilità dei ricorsi si terrà il 13 febbraio prossimo. Breaking news. Mario Balotelli è un giocatore del Milan, il club rossonero ha infatti raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento dell'attaccante a Milano. Il giocatore domani sosterrà le visite e firmerà il contratto fino al 2017. Grazie al nostro Dario Ricci e alla redazione, soprattutto saranno contenti i tifosi milanisti, immagino. Dicevamo, la consulta andrà il più velocemente possibile, quindi il 13 febbraio prossimo, a decidere se si può ammettere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Invece adesso noi partiamo subito con il nostro primo tema, che, come vi ha annunciato tutto il giorno la radio, riguarda l'Emilia che riparte nonostante tutto, e l'Emilia che non ce la fa ripartire anche per vincoli esterni. Vi dico che noi ogni 29 del mese, tranne febbraio, non vi dico manco perché, Ci occuperemo dell'Emilia Cripate, perché l'iniziativa che abbiamo tenuto a Mirandola, a Villa Tagliata, non resta una cosa isolata. Noi vogliamo andare a vedere che le promesse poi vengano mantenute e che vi sia veramente una corsia preferenziale anche per gli emiliani colpiti dal terremoto. Per cui tutti i mesi, il 29, ripeto, salvo mese di febbraio, quando non bisesto, noi andremo a occuparci dell'Emilia Romagna. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere, sono un eroe. Qualcuno ricorderà il Sole 24 Ore dello scorso 10 gennaio, quando nella pagina di Economia, Imprese e Territori, l'apertura riguardava proprio l'Emilia Romagna, 6 miliardi fermi per la burocrazia, moltissime centinaia di imprese, ma anche migliaia di privati che non hanno presentato le richieste di finanziamento a causa di procedure estremamente complicate. E già oggi se ne è occupata 9 in punto questa mattina. In realtà è inutile ricordare ogni volta tutta la lunga lista dei danni, ma insomma stiamo parlando di danni che hanno colpito sostanzialmente 550.000 persone coinvolte, 57 comuni, 5 miliardi di danni alle attività produttive, 3 miliardi e mezzo all'edilizia residenziale, 2 miliardi ai beni storico-culturali. I comuni più colpiti: Medolla, 548 aziende, prevalentemente agroindustria; Cavezzo, 700 aziende della meccanica; Novi di Modena, 1000 imprese sempre della meccanica; Finale Emilia, 1300 imprese della ceramica; Mirandola, 2300 imprese soprattutto nel biomedicale; Carpi, 7200 imprese, la maggior parte operanti nel tessile. Allora, la Cassa Depositi e Prestiti ha stanziato 12 miliardi di euro a favore delle zone terremotate emiliane attraverso due plafond da 6 miliardi l'uno. Praticamente il primo è servito per la moratoria fiscale e per la dilazione del pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi, il secondo per la ricostruzione. L'Unione Europea ha stanziato 670 milioni di euro, però i soldi effettivamente erogati sono stati solo una piccolissima parte, lo ha spiegato oggi l'assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna, Giancarlo Muzzarelli, a Simone Spezia nel programma 9 in punto. Il 10 di ogni mese, ho detto, sono in erogazione. Noi abbiamo domande per oltre 4 milioni per le imprese e abbiamo 1200 domande per le case e per gli imprenditori che sono negli immobili civili. Il 10 del mese prossimo saranno erogate oltre 300.000 euro e nell'arco del mese successivo saranno erogati oltre 4 milioni di euro. Perfetto. Quindi questi sono i primi, mi scusi Muzzarelli, questi sono i primi soldi che vengono erogati? Questi sono i primi soldi erogati, oltre a quelli già erogati per gli interventi diretti ai commercianti per le loro diciamo strutture provvisorie e per gli altri interventi che abbiamo previsto a sostegno infrastrutturale e di aiuto agli artigiani. Ma il punto chiave è: oggi ci sono tutte le condizioni perché regole, comportamenti e azioni sono operative. Perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Allora, io ringrazio per averci raggiunto, intanto ringrazio la collega Laura Bettini che ha condotto tutte le interviste che abbiamo sentito oggi e sentiremo nel nostro Radio Day, ed è lei il riferimento poi a Radio 24 per seguire e monitorare ogni mese lo stato di avanzamento dei lavori o anche lo stato di fermo dei lavori. Ma dicevo, ringrazio per averci raggiunto in collegamento la dottoressa Sandra Guerzoni dello studio Benatti di Mirandola, dove fanno i revisori dei conti. Buonasera dottoressa. Buonasera. Allora, buonasera. È in viva voce per caso? Sì. No, dovrebbe levarmela, può? Ok, sì. se no abbiamo l'effetto eco o caverna. Senta, voi avete seguite numerose pratiche e tutte le procedure di accesso ai contributi. Sì. Mi dica una cosa, perché noi l'abbiamo detto più volte, ci sono delle pratiche estremamente complicate che allontanano imprese e privati, ma nel concreto dov'è che vanno a collocarsi gli elementi di maggiore rigidità, di maggiore complessità, quasi bizantinismi? Cioè, la complessità della domanda sta nel fatto che comunque è richiesta una folta documentazione a dimostrazione appunto del danno, a comprovare appunto il danno, che per carità, cioè, l'obiettivo, la finalità sì, cioè, è nota, e quindi cioè, evitare è naturale che insomma sì? la finalità è evitare l'uso improprio di questi contributi, no? Certo, sicuramente. Però ecco, diciamo che nelle varie fasi, ecco, vale a dire nella fase istruttoria abbiamo la richiesta di una perizia giurata che vada appunto a valutare quello che è il danno, corredata di materiale fotografico, a comprovare comunque quello che si dice nella relazione, e in ogni caso la documentazione che viene richiesta non è solo nella fase istruttoria, ma anche nella fase che precede l'erogazione propria del contributo, a comprovare che comunque l'impresa sta eseguendo coerentemente con quello che è il piano di ricostruzione che è stato presentato alla Regione, sostanzialmente attraverso una piattaforma informatica, e anche questo è un ulteriore elemento di difficoltà, nel senso che anche la piattaforma informatica pone qualche problema di gestione della domanda, se non altro perché è richiesto che la domanda di contributo sia unica per beneficiario, quindi il beneficiario che ha subito danni agli immobili, potrebbe non essere un unico immobile, danni alle scorte, danni appunto derivanti dal danneggiamento dell'immobile in cui svolgeva l'attività, per cui si è delocalizzato, la sostituzione di impianti, di macchinari, ecco, può presentare un'unica domanda richiedendo il contributo per tutti i danni che ha subito, e questo rallenta ulteriormente perché potrebbe essere definita in tempi molto brevi quella che è la domanda di danno relativamente alle scorte, relativamente a quella che è la sostituzione degli impianti, relativamente alla delocalizzazione, ma non certo per quanto riguarda gli immobili. Tenga presente che, e questo lo dovrebbero precisare anche i tecnici, non so se a tutt'ora ci sono queste benedette mappe di scuotimento che permettono una definizione dei progetti di ristrutturazione tenendo in considerazione quelle che sono le però norme. Mi scusi, però l'imprenditore non è obbligato a presentare un'unica domanda di risarcimento? Può è obbligato. È obbligato, questo non avevo capito. Ad oggi la Regione risponde che è obbligato, e così si per cui deve fare una domanda di risarcimento su danni, se posso permettermi di tradurre, così diversi e anche di diversa valutazione, perché il danno sulle scorte o sui macchinari lo vedi abbastanza rapidamente. Definisce rapidamente. Esatto, quello che è il costo di ristrutturazione o il danno, altri danni collaterali sono un po' più difficili e necessitano di più tempo. In realtà tutto viene messo nello stesso calderone, per cui uno riceverà poi il rimborso sia per una cosa che per l'altra, ma diciamo alla fine di un'unica pratica burocratica e iter burocratico. Perfetto, questo è un motivo appunto, cioè questo rallenta e insomma fa anche spostare in avanti il termine per l'erogazione poi di fatto del contributo. Ecco, dopo il traffico, il metodo, mi scusi, io vorrei capire però un'altra cosa, perché l'autocertificazione funziona o non funziona, nel senso che mi risulta che anche chi ha chiesto un finanziamento per danni indiretti ha una burocrazia allucinante, ma soprattutto voi avete fatto un confronto con il trattamento dei terremotati all'Aquila che hanno appena ottenuto il riconoscimento di zona franca urbana, e vorrei capire che cosa avete scoperto, non per fare una guerra tra poveri o tra vittime di sciagure, ma per vedere se l'Aquila può rappresentare quella che in gergo si chiama best practice, cioè un esempio di riferimento e da applicarsi anche all'Emilia Romagna nel caso non si sia fatto. Dottoressa Guerzoni, da questo punto di vista quali sono i danni, diciamo, le lungaggini burocratiche che subisce chi cerca di fare anche, ha subito anche danni indiretti, quindi cerca di fare la pratica per i danni indiretti, lì dovrebbe esserci l'autocertificazione. Non ho capito perché non abbia funzionato, ma soprattutto il riferimento con l'Abruzzo e con il terremoto dell'Aquila può insegnare qualcosa, ripeto, come best practice, ed è stato seguito? Allora, noi effettivamente abbiamo, cioè, riterremmo che potrebbe essere un valido strumento per i piccoli e medi imprenditori anche nelle nostre zone sostanzialmente, perché implicherebbe un'esenzione da IRES, un'esenzione dalle imposte, che in questo periodo francamente sarebbe insomma valutato, cioè, molto per i terremotati emiliani non c'è la possibilità, lo dico per essere chiarissimo, sì, che hanno avuto gli aquilani di versare in 120 rate i tributi e i contributi dopo quasi tre anni di sospensione con riduzione del 60% dei tributi dovuti. No, assolutamente. Allora, questo diciamo è stato un decreto legge che è stato approvato proprio a fine ottobre, dove si è introdotto un marchingegno, cioè per salvare capre cavoli, se così possiamo dire, vale a dire salvaguardare quelle che erano le esigenze di rigore del bilancio dello Stato con quelle che erano le richieste della parte, diciamo, delle imprese, che era quello di prorogare ulteriormente i versamenti dei tributi che erano stati sospesi fino al 30 di novembre. Il meccanismo che è stato utilizzato per l'Emilia Romagna, la Lombardia appunto e il Veneto è stato quello di accedere ad un finanziamento garantito dallo Stato fino sostanzialmente per dar modo di sospendere, un finanziamento che ha consentito di versare puntualmente tutti i tributi, contributi e l'INAIL che era scaduta fino al 30 di novembre, entro il 17 dicembre del 2012, attraverso appunto questo finanziamento garantito dello Stato, per cui di fatto non c'è stato l'esborso da parte dell'imprenditore oggi, si è però indebitato. Questo vorrà dire che dovrà iniziare a restituire questo finanziamento a partire dal luglio 2013. Potrà versare attraverso questo finanziamento quelli che sono anche tutti i tributi e contributi che andranno a scadere dal 1 gennaio sino al 30 giugno 2013. Però saranno da restituire, salvo ovviamente gli interessi che sono invece a carico sostanzialmente dello Stato. Quello che lei diceva a proposito della richiesta di finanziamento per coloro che hanno subito danni indiretti, e stiamo parlando sempre di un finanziamento comunque che avrebbe consentito di non versare i tributi sostanzialmente, perché non ha funzionato? Perché è stato comunque è stato approvato questo provvedimento nella legge di stabilità e quindi dopo che in ogni caso erano stati chiusi i canali per fare richiesta del finanziamento. Sì, ma tra l'altro nell'autocertificazione l'azienda deve dichiarare che è in crisi. È una prova assurda. Sì, certo. Deve dichiarare che è in crisi di liquidità. E che ma ovviamente un'azienda prima di dichiarare che è in crisi di liquidità, che vuol dire mettersi poi nei casini, scusatemi il termine, con le banche o con i fornitori, perché tu dichiari una cosa del genere e poi la banca ti chiama il giorno dopo e dice scusami, sei in crisi di liquidità, ah bene. E la stessa cosa vale per i fornitori, nessuno vuole fare questa dichiarazione, quindi non si fa la pratica per anche per i danni incerti. No, quello che io non capisco nel ringraziarla, veramente non lo capisco, perché non si sia seguita la linea dell'Aquila, perché ripeto, gli aquilani giustamente hanno avuto la possibilità di versare in 120 rate i tributi e i contributi dal gennaio del 2012, quindi 3 anni quasi di sospensione hanno avuto prima di doverli versare, e a rate, con una riduzione del 60% dei tributi dovuti. Ora capisco che adesso con il governo Monti vi fosse anche il rigore, ma siccome stiamo parlando sempre di terremotati, non è che uno è terremotato, è più o meno terremotato a seconda degli anni in cui ti arriva il terremoto, mettiamoci d'accordo su questo, perché sennò si creano delle ingiustizie nel dramma e nella tragedia. Grazie a Sandra Guerzoni. Io adesso invece devo cambiare radicalmente tema, perché c'è come sempre a quest'ora la borsa, poi invece passeremo anche ad altre vicende, dovremmo avere anche ospite una storia bella di un imprenditore che risparmiando è riuscito a dare la quindicesima ai suoi dipendenti. Però intanto la borsa. Borsa, dicevo, leggermente negativa, anzi no, ha recuperato tutto nel finale, meno 0,03%. Non è cosa, Parigi più 0,13%, Francoforte più 0,20%, Londra più 0,70%, l'America più 0,40%, euro a quota 1,34,70%, negativa Saipem, meno 3,5%, e molto bene anche oggi A2A più 4,30%. Percento. Eleonora Micheli, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Lasciamo stare Monte dei Paschi, di cui parleremo dopo, che comunque ha avuto un guizzo nel finale, più 2,30%, Eleonora. Sì, esatto. E invece concentriamoci su A2A. Sì, per quanto riguarda, diciamo oggi è andato un po', è stato messo in luce il settore dell'energia, è andato bene in tutta Europa, tant'è che il sottoindice del comparto è uno dei migliori a livello europeo, quindi non ha fatto eccezione a 2A che è balzata sul finale di questo 4%. Sì, ieri c'è stata la lettera all'investitore del Sole 24 Ore, oggi mi sembra meno notizie. Sul fronte opposto però c'è Saipem che perde il 3,5%. Esatto, Saipem è partita male sin dalle prime battute di questa mattina, il motivo è che Bank of America Merrill Lynch ha collocato 10 milioni di azioni, ovvero il 2,3% del capitale in borsa per un cliente istituzionale, e ovviamente quindi il titolo ne ha risentito di questa operazione, anche perché il prezzo a cui sono state collocate le azioni di 30,65 euro, leggermente superiore al prezzo di chiusura 30,45, era diciamo nella forchetta bassa che l'investitore si era prefissato di ottenere. Ancora tra i titoli oggi, molto bene, Mediaset più 2,20%. Mediaset più 2,20%, a riaccendere i riflettori sull'azienda è stato un report Exane BNP Paribas che soprattutto ha puntato l'indice sul fatto che la società ha galoppato molto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, soprattutto da dicembre, per la discesa in campo di Berlusconi, che peraltro sta recuperando anche popolarità, almeno dai sondaggi. Quindi ovviamente ne beneficia l'andamento del titolo, anche perché riflettono gli analisti della banca d'affari, in caso di un buon esito dalle urne potrebbe terminare l'incertezza sulle famose frequenze televisive. Evidentemente in borsa c'è già chi fa delle scommesse. Allora, il traffico e poi gli altri titoli invece che si chiamano oggi anche Seat Pagine Gialle, ma anche Azimut, e volevate sapere dei bancari, oggi cauti tutti i bancari, Banco Popolare meno 0,20%, e invece Generali meno 0,90%, Intesa invariata, Ubibanca meno 0,50%, Popolare di Milano più 0,40%, Unicredito più 0,80%. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Leonora Micheli, dicevamo Seat pagine gialle da un lato, visto che oggi le banche sono state più tranquille. Seat è stato il peggior titolo, ma voglio dire peggiore perché ha perso il 41,5%. Ormai cosa vale? 3 centesimi il titolo? Vale 0,0031, praticamente zero. Sì. Comunque, cioè, il valore della società praticamente è il debito che comunque dopo la ristrutturazione, cioè, è stato ristrutturato, ricordiamo. Ma d'altra parte la seduta di oggi era abbastanza prevedibile, visto che ieri in tarda serata la società ha diffuso questo comunicato in cui, come un fulmine a ciel sereno, ha annunciato che non pagherà la cedola semestrale da 42,2 milioni sui prestiti obbligazionari, cedola che è in scadenza adesso a fine mese. La notizia era abbastanza inaspettata e quindi la reazione di borsa è del tutto comprensibile. Mamma mia, se penso che ai tempi della New Economy con Pelliccioli il titolo andava sui 7 euro e mezzo, vabbè. Comunque, mi spiace perché comunque è una società che ha un EBITDA, cioè ha dei margini, fino a qualche anno fa aveva dei margini di 300 milioni, 400 milioni che poi sono andati un po' calando, però è stata una società che evidentemente sta cambiando un po' business, ma è stata assolutamente schiacciata dalla finanza. E non è l'unica, meno 5% in questo, anche Italcementi oggi. Scusatemi, Olidata meno 6,24%, a fronte opposto invece El Venture Group più 18,30%, Bolzoni più 10,54% e la Banca Popolare di Spoleto più 6,70%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore. E adesso invece torniamo sui temi dell'economia, i temi dell'economia reale, però per avere anche una buona notizia. Ogni tanto parliamo sempre della crisi delle imprese, del grido di dolore che arriva dagli artigiani, dai commercianti, dagli imprenditori, e c'è una buonissima notizia soprattutto per i dipendenti di questa impresa. La buona notizia è questa, arriva da un'azienda che opera tra l'altro in Emilia, che ha difficoltà come tutte le imprese, che ha dovuto ridurre i costi come tutte le imprese, si chiama Renner Italia, nel bolognese, specializzata nelle vernici per il legno. Beh, che cosa ha fatto la Renner Italia? Beh, facciamocelo raccontare dall'amministratore delegato Lindo Aldovrandi. Mi sente, Aldovrandi? La sento, buonasera. Buonasera, grazie per la disponibilità. Che cosa ha dato lei ai dipendenti? Diciamo che la conclusione è questa. Abbiamo dato, oltre alla 14ª mensilità che l'azienda dà, abbiamo dato 2.000 euro lordi a ogni dipendente, che è un po' più che una 15ª mensilità. Eh beh, un po' di più, sì. Ecco, cosa è successo? Come ha fatto? Il fatturato immagino vada bene o no? Il fatturato va bene, l'azienda va bene, è cresciuta anche quest'anno, quando dico quest'anno, è il 2012, di un 10,5%. L'estero chiaramente ci ha dato una grossa mano perché è cresciuto del 28%. Mentre l'Italia è praticamente leggermente calata di un paio di punti, 2 o 3 punti percentuali, e il risultato è stato che abbiamo fatto un 70 milioni di fatturato con un utile netto di 1.950. L'accordo fatto 2 anni fa era di distribuire il 15% degli utili con i dipendenti, e questo accordo legato all'accordo che abbiamo fatto a marzo-febbraio del 2012, legato a una distribuzione del 50% dei risparmi derivanti dalle dalle bollette dell'energia elettrica, del gas, smaltimento rifiuti, manutenzioni, e tutte queste voci davano origine a una spesa di 1,5 milioni. I dipendenti, tutti quanti, hanno lavorato molto bene, abbiamo ottenuto un risparmio del 7,5% di questa spesa, che unito all'altra voce ha porterà in busta paga 2.000 euro lordi a ogni dipendente. Beh, fortunati, bravi anche, non fortunati, dipendenti della Renner. Mi dica una cosa, come avete fatto? Cioè, questa cifra è, se ho ben capito, il risultato, diciamo, di un premio per l'andamento dell'attività, quindi fatturato più 10%, ma anche il 50% di quanto lei ha risparmiato, cioè esatto. Voi avete risparmiato. Come ha fatto a risparmiare su gas, luce? Cioè, o eravate inefficienti prima o vivete al buio adesso? No, mi dica. No, tutti, siamo tutti un po' inefficienti, no? E quindi abbiamo cercato di porre la massima attenzione, lo dica a me, ma anche alle cose banali. Cioè, noi abbiamo innanzitutto fatto tutta una serie di cartellonistica che abbiamo distribuito all'interno dello stabilimento, sia negli uffici che in produzione, per ricordare alle persone tutte le cose che possono dare e che possono fare per avere un atteggiamento virtuoso. Mi faccia qualche esempio, un paio. Il classico: si esce dall'ufficio, io esco dall'ufficio, spengo la luce. Se devo fare una fotocopia, invece che fare una fotocopia a colori, la faccio in bianco e nero. E quanto avete risparmiato con tutte queste micro pratiche? Quanto mi dica? Un 7,5 di 1,5 milioni e circa 100, vado a memoria, 115.000 euro, 120.000 euro. Ah. 120.000 euro il risparmio complessivo? Sì, sono soldi, questi 120.000 euro. Di cui lei ha presi 60.000 e fanno parte, esatto, di questo integrativo che distribuisce, esatto, i dipendenti. Esatto. Quanti sono i dipendenti, mi scusi? 200. E da questo punto di vista l'altra variabile, cioè il più 10%, lei ci raccontava che l'avete ottenuto sui mercati esteri, ma... Sì, chiaramente sui mercati esteri, perché come si sa ormai... Le aziende che sono focalizzate essenzialmente sul territorio nazionale in questi momenti sono in grande crisi. Noi abbiamo sempre creduto fin dall'inizio, un'azienda giovane che nasce nel 2004, quindi noi abbiamo 9 anni di vita. In 9 anni di vita noi siamo partiti da zero e quest'anno chiudiamo con 70 milioni di fatturato. E abbiamo sempre creduto, dicevo, presente all'estero. Aldovrandi, ma perché questi soldi invece che dare ai dipendenti non li ha reinvestiti? Beh, noi continuiamo a investire perché lo scorso anno abbiamo investito 2.400.000 euro e anche nel 2003 prevediamo un ulteriore investimento di 2 milioni e 400 mila euro. Quindi non hai un'alternativa a questo? No, mi interessava. Noi abbiamo sempre cercato di mettere al centro dell'azienda, del progetto industriale, l'uomo. Quindi sappiamo che questi risultati non sono dovuti solo all'impegno e all'abnegazione di un gruppo di persone, ma all'impegno, all'abnegazione, alla passione, alla volontà di tutti i dipendenti, dal centralinista all'amministratore delegato. Non le chiedo neanche come l'hanno accolta. Beh, abbiamo fatto un evento ieri mattina all'interno dello stabilimento, al quale evento abbiamo invitato il sindaco di Minervio, abbiamo invitato i sindacati, le banche, perché sono importanti, e tutti i dipendenti, ed è stato accolto molto bene. Mi dà un consiglio ai suoi colleghi che sono meno fortunati, meno bravi, delle volte anche insomma hanno più difficoltà esterne? Ma bisogna essere meno egoisti. Me la ridice questa? La penso così. Me la ridice? Bisogna essere meno egoisti. Complimenti, bravo, grazie anche a te. Ringrazio. In bocca al lupo, lei e i suoi 200 dipendenti. Grazie, grazie Lindo Aldovrandi, amministratore delegato della Renner Italia. E vedo che anche altri segnalano la Graziella Group di Arezzo, è cresciuto dell'80% e ha distribuito bonus. Bene, bene, segnalateci queste cose. Un ascoltatore particolarmente allegro scrive: una rondine non fa primavera, parli di tutti quelli che falliscono e portano i libri in tribunale, lo facciamo tutti i giorni. Ho capito che è presto per la primavera, no, ma non mi deprimete la rondine, su. €2.000 dipendente, avete sentito anche come? Risparmiando e lavorando e aumentando il fatturato. Bisogna essere meno egoisti, sembra una banalità, ma mica tanto banale in questo periodo. Adesso andiamo sulle notizie del GR e poi, a proposito di egoismo, facile la palla, è troppo bella, parliamo del Monte dei Paschi, lì invece tutti altruisti con i soldi dei risparmiatori verso se stessi. 349-238-6666 per i vostri sms e Facebook. Tra l'altro ha confermato oggi anche le agenzie quanto ci ha anticipato ieri la nostra Raffaella Calandra, che nel mondo della finanza erano conosciuti Pontone e Baldassarri come la banda del 5%. E adesso il Monte dei Paschi di Siena. Giornata intensa anche quella di oggi, vediamo di riepilogarla. Questa mattina al Tesoro, riunione del Comitato per la Stabilità Finanziaria con il Ministro dell'Economia Grilli, il Governatore della Banca d'Italia Visco, il Presidente della Consob Vegas e il Presidente dell'IVAS, la Neo Autorità sulle Assicurazioni, Fabrizio Saccomanni. E poi nel pomeriggio sempre il ministro Vittorio Grilli, che è intervenuto in Commissione Finanze di Senato e Camera proprio sulla vicenda Monte dei Paschi. Ieri si è saputo, Grilli ha avuto un incontro segreto, fino a che non si è saputo chiaramente, a Milano con il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Immagino che abbiano parlato anche e soprattutto del Monte dei Paschi. Nel frattempo le notizie continuano a uscire, non solo quella che ha sorpreso molti, 8 bonifici per un totale di 17 miliardi usciti dal Monte dei Paschi in 11 mesi con destinazione Amsterdam, Madrid e Londra. Uno degli atti dell'inchiesta della Procura di Siena, che indaga appunto sull'acquisizione di Anton Veneta da parte del Monte dei Paschi, ma siccome è costata 9 miliardi Anton Veneta, anche se questi bonifici fossero stati per pagare Anton Veneta, mancano all'appello 8 miliardi, mezza manovra finanziaria. E poi, come già ci ha anticipato ieri la nostra Raffaella Calandra in esclusiva, oggi adesso lo riprendono anche le agenzie, Antonio Rizzo, ex funzionario di Dresdner Bank, sentito come testimone nel 2008, disse: Gianluca Baldassarri, Matteo Pontone, già responsabile della finanza di Monte dei Paschi e delle filiali di Londra, testimone sul 2008 chiaramente, erano noti come la banda del 5%, perché su ogni operazione pretendevano tale percentuale, chiamasi anche tangente. E poi il numero uno attuale, Fabrizio Viola, ha ricordato come nel Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio presentò la proposta per risolvere il contratto di Gianluca Baldassarri, direttore dell'area finanza, e ha detto: se richiesto sono pronto a dare anche spiegazioni ai consiglieri, ma nessun consigliere gli chiese perché veniva allontanato il direttore area finanza. Strano, no? E ancora il nucleo di Polizia Tributaria di Milano, in un'informativa del 2010 inviata ai PM che indagavano sulla società di intermediazione svizzera Luftin Service, scrive il nucleo di Polizia Tributaria di Milano: nel corso delle indagini è stato accertato che la Luftin Service era stata utilizzata quale veicolo per effettuare pagamenti riservati nei confronti di alti dirigenti del Monte dei Paschi di Siena. E questo è anticipato dal sito L'Inchiesta. E adesso gli ultimi aggiornamenti, perché poco fa il procuratore di Siena, 2 minuti fa, Tito Salerno, ha detto: non posso dirvi nulla, la situazione è esplosiva e incandescente, stiamo parlando del terzo gruppo italiano, situazione esplosiva e incandescente. E Alessandro Profumo, presidente del Monte dei Paschi, ha dichiarato, immagino in una registrata al programma Ballarò che andrà in onda questa sera, potenzialmente una nazionalizzazione del Monte dei Paschi può accadere, sottolineo potenzialmente perché abbiamo fatto un piano industriale con il nuovo consiglio di amministrazione che dovrebbe consentirci di restituire i Monti Bond, ossia il supporto pubblico che stiamo ricevendo. Potenzialmente però la nazionalizzazione non è da escludersi. Tutte notizie rassicuranti, ma a me poi fa particolarmente specie vedere che varie segnalazioni sono state fatte anche in questi anni. No, lo dico perché oggi invece il ministro Grilli, intervenuto in audizione appunto in Parlamento, ha detto non ci sono dubbi sulla solidità del sistema, non è un salvataggio quello che stiamo operando. E la vigilanza, io voglio ripartire da questa dichiarazione di Grilli, la vigilanza della Banca d'Italia è stata attenta e appropriata. Attenta e appropriata. Attenta e appropriata. Anche grazie alle informazioni fornitemi dal governatore della Banca d'Italia in una relazione che lascerò agli atti a disposizione della Commissione, a mio parere l'azione di vigilanza sul Monte dei Paschi e sulla Fondazione è stata continua, attenta, appropriata, via via intensificatasi negli anni, con un'azione ispettiva e di vigilanza in generale da parte della Banca d'Italia, iniziata nel 2010 con l'allora governatore Draghi e proseguita nel 2011 e nel 2012, oggi ancora nel 2013 con il governatore Visco. No, però fatemi capire una cosa, col massimo rispetto per l'ex governatore Draghi, per l'attuale governatore Visco, per il ministro Grilli, ma se una vigilanza attenta e appropriata ci ha portato a questo, quando è che la vigilanza non è attenta e non è appropriata? No, per capire. Cioè, meno male che era attenta e appropriata. Allora, delle due l'una, io sono un po' grossier, un po' grezzo su questo. O la vigilanza non è sufficiente perché poi i manager riescono a fare la banda del 5%, a fare bonifici da 14 miliardi in 11 mesi e allora evidentemente gli strumenti in mano alla vigilanza non sono appropriati. Magari la vigilanza è attenta ma non ha gli strumenti efficaci. Oppure forse qualcosa è stato sottovalutato. Cioè non si può dire tutto bene, madama la Marchesa, abbiate pazienza, mentre stiamo ragionando se si riesce a salvare la terza banca italiana. Io capisco tutto, però. Comunque, il ministro Grilli poi specifica che i nuovi titoli, cioè l'aiuto dato al Monte dei Paschi, non è un contributo a fondo perduto, ma è un prestito, tra l'altro con un interesse oneroso del 9%. Alcune caratteristiche salienti di questi nuovi titoli. La prima ha a che fare con le condizioni di remunerazione. I nuovi strumenti finanziari sono remunerati ad un tasso del 9% annuo per l'esercizio in corso dalla data di sottoscrizione. Quindi, primo elemento sempre da sottolineare, questo non è un contributo a fondo perduto, questo è un prestito che viene pagato a un tasso di interesse a partire dal primo anno di sottoscrizione del 9%. Il tasso di interesse poi è incrementato dello 0,5% ogni due esercizi a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione fino al limite massimo del 15%. Va bene, in questo ha ragione il ministro Grilli a chiarire, perché poi questa vicenda è diventata parte della campagna elettorale, che non è un aiuto, è inutile dire che sono stati usati i soldi dell'IMU, questo è un prestito che la banca dovrà ridare pagandolo anche caro, ossia il 9% di interesse. Però sulla vigilanza, mi dispiace ministro Grilli, non ci siamo, ripeto, piuttosto diciamo che non va bene il sistema, riformiamo il sistema dei controlli, ma non è possibile che una banca venga spolpata in questo modo e poi ci si dica meno male che c'era la vigilanza della Banca d'Italia. Se no cosa facevano? Si portavano via anche Rocca Salimbeni fisicamente, cosa dovevano fare ancora? Vabbè, traffico, e poi ne parliamo perché appunto c'è chi sostiene che i mali del Monte dei Paschi non nascono tanto solo nel 2007 con l'acquisizione di Antonveneta, ma vadano ben dietro, e qualcuno forse ricorderà una banca pugliese Banca 121, qualcuno se la ricorda, perché pure lì vi fu un grosso scandalo e poi tutto un po' finì nel dimenticatoio, banca acquisita dal Monte dei Paschi, ma in tempi non sospetti. C'è chi dice: Barisoni la smetta di affrontare un tema serio come quello del Monte dei Paschi come un argomento da bar. Ma perché? Cosa ho detto? Cioè, capì? Che non so, sta, un altro scrive: si vergogni, sta cavalcando l'onda populista. E l'onda populista quale sarebbe? Che il Monte dei Paschi è in ginocchio, senza i 4 miliardi dello Stato andavamo a nazionalizzarlo subito? Qual è l'onda populista? Mi faccia capire. I bonifici da 14 miliardi sono un'onda populista? Chiedo. Le perdite da mezzo miliardo che per ora i due fondi, le due operazioni Alexandria e Santorini stanno generando nella banca, quello è populismo? Magari, non lo so. Vabbè, allora, al di là delle mie perplessità sulle dichiarazioni del ministro all'economia Vittorio Grilli in merito, diciamo, al fatto che tutte le autorità di vigilanza, perché poi non parliamo mai della Consob, pure lì la Consob dove sta? Vabbè. Io vorrei capire di più, appunto, anche in chiave storica con chi insegna finanza strategica all'Università di Firenze e anche qui in tempi non sospetti aveva avanzato più di un dubbio sul Monte dei Paschi e anche sull'operazione a suo tempo effettuata, quella con per l'acquisizione di Antonveneta. Mi riferisco al professor Stefano Cordero di Montezemolo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Tra l'altro, quindi, nella regione che vede il Monte dei Paschi protagonista di questo scandalo. Mi dica una cosa: il ministro Grilli ha rassicurato oggi sul ruolo della Banca d'Italia e degli ispettori, però da più parti si continua a dire: ma insomma, qualcosa non ha funzionato anche nei controlli, se si è creato un buco tale e nella Consob, nella Banca d'Italia lo hanno denunciato in maniera compiuta per tempo, le anomalie gli ispettori le avevano segnalate. Però insomma, non si può semplicemente dire: vabbè, abbiamo fatto il possibile, sennò sarebbe come ammettere che il sistema è pieno di falle. Condivido in pieno, il Monte dei Paschi si fa fatica a salvare qualcuno in questa vicenda. Comunque la Sigiri, tutti i soggetti che dovevano avere un ruolo, una responsabilità, hanno fallito, almeno per incuria, per superficialità. La vicenda del Monte dei Paschi però è un po' più lunga, bisognerebbe sempre inquadrarla dal 99 in avanti, quando questa banca è diventata un po' lo strumento di una serie di operazioni, ricordiamoci la famosa Banca 121, che hanno avuto delle caratteristiche sempre molto anomale. E quindi probabilmente si era creata intorno al Monte dei Paschi una logica che è andata avanti finché ha retto, poi a un certo punto è saltato qualcosa e stanno emergendo tutto le cose che hanno caratterizzato la conduzione da 15 anni a questa parte di una grande banca storica che rischia la sopravvivenza. Quindi lei dice: non è vero che tutto ha origine nel 2007 con l'acquisizione di Antonveneta, strapagata, a questo punto lo sappiamo tutti, già allora ci fu chi disse che era pagata cara, poi crollò pure la finanza e diventò ipercara, ma lei dice bisogna andare indietro al 99, perché il 99? Perché nel 99 il Monte dei Paschi fece due operazioni, una piccola però politicamente rilevante, perché rilevò la Banca Agricola Mantovana, che guarda caso era un po' la banca dove c'erano gli interessi della famosa razza padana che fece la scalata di Telecom. E poi dopo fece l'acquisizione di Banca 121, che fu giudicata pagata due volte quella che era la stima che la proprietà di allora aveva ottenuto da un advisor per mettere la banca sul mercato. Anche quell'operazione fu anomala, e fu anomala anche perché il caso stranissimo è che il top manager dell'acquisita, che era 20 volte più piccola, almeno forse anche di più, dell'acquirente, diventò poi il top manager dell'acquirente e condusse la banca per un paio d'anni con una serie di operazioni che sappiamo tutti misero in ginocchio Monte dei Paschi, tant'è che Monte dei Paschi non riuscì a fare delle acquisizioni nel periodo d'oro, cioè da 2000-2006, quando altre banche le facevano, è perché doveva risanare i conti per una serie di mala gestione che aveva caratterizzato quel periodo, e poi dopo si arriva al 2007, quindi è un modo per scaricare solo in gran parte su questa gestione una storia che invece è molto più lunga se la vogliamo vedere in termini di quadro. Banca 121, che tra l'altro travolta poi dagli scandali, ricordiamolo, perché insomma non è stata un'acquisizione, esatto, oltre che pagata tanto con i manager che della cooptata che diventano, vanno loro al comando di chi ti ha acquisito, fu un'operazione anche che venne travolta dagli scandali. E lei dice questo comportò un esborso, poi ci furono un insieme di operazioni care che non permisero al Monte dei Paschi di aggregarsi nel periodo in cui altre banche si aggregavano. Arrivò tardi a questo, arriva il 2007, i prezzi sono ai massimi, siamo a pochi giorni prima del diluvio, pochi mesi in realtà, e Monte dei Paschi va per acquisire qualcosa, per fare una per comprare anche lui, per aumentare le sue dimensioni, va a comprare Antonveneta a prezzo d'oro o addirittura di platino, come ritardo complessivo. Esatto, cioè questa fu una considerazione che gli osservatori, e io mi metto tra questi, a quel tempo facemmo. Tutti giudicammo assolutamente eccessiva quella cosa. D'altra parte però l'operazione riuscì a passare un po' nell'opinione generale, perché industrialmente aveva un senso. In effetti Monte dei Paschi era una banca forte nel centro Italia e nel sud, ma era totalmente assente nel nord Italia, quindi quella acquisizione poteva avere un senso industriale. Il fatto è che si è dimostrato, e quando uno la paga senza avere le disponibilità, perché poi la cosa incredibile, quello che si sta rivelando, è che le disponibilità apparenti che giustificavano quell'operazione erano già allora, in qualche modo già allora mascheravano una realtà patrimoniale inferiore e quindi inadatta a poter gestire quel tipo di operazione. Ecco, c'è chi dice però che in realtà se il Monte dei Paschi è arrivato tardi e male a fare un'acquisizione è perché ha frenato tutto un processo di ingrandimento, di maggiore dimensioni, la presenza della Fondazione Monte dei Paschi, che non voleva scendere sotto il 51%, e quindi la senesità, il voler mantenere la banca locale con un ruolo di maggioranza anche assoluta della Fondazione, che poi l'ha perso, è stato il vero elemento frenante. E qui secondo me tocca un punto che dimostra esattamente quel consociativismo a cui si alludeva prima, cioè che il Monte dei Paschi poi alla fine è verissimo che è una banca di sinistra dove ha le primarie responsabilità, perché comunque non si può dire che non ci fosse questa cinghia di trasmissione tra la banca e i partiti del territorio, anche quelli nazionali. Però è anche vero che il centrodestra non ha mai fatto alcuna obiezione al fatto che l'unica fondazione a cui fu consentito di derogare alla legge Amato e anche alle indicazioni che lo stesso Tremonti aveva dato alle fondazioni per scendere dal controllo delle banche fu la Fondazione del Monte dei Paschi. E quindi questo fa capire che forse intorno a quella banca c'era una disponibilità generalizzata a consentire una serie di manovre che riguardavano sia la fondazione, ma anche la banca stessa, che poi nel tempo si stanno manifestando per quello che erano. Per concludere, chi dice che in questa vicenda, con tutte le differenze del caso, ci mancherebbe, però ricordo un po' la vicenda Parmalat, cioè sono saltati vari meccanismi di controllo, vedremo poi le responsabilità penali dei manager, vari meccanismi di controllo, e faceva comodo a tutti che andasse avanti in un certo modo. Lei il parallelismo lo trova forzato, eccessivo? Per quanto mi riguarda c'è il parallelismo, perché adesso non voglio fare delle considerazioni su me stesso, ma chi ha seguito un po' le cose negli ultimi 2 anni sa che io sul Monte dei Paschi più volte sollevavo la questione, sì, e mi immaginavo che si sarebbe arrivati a questo punto, così come fece allora su Parmalat, al di là del fatto che non conoscevo esattamente quello che c'era dietro, ma leggendo i numeri e capendo un po' le cose dal modo in cui si muovevano gli attori coinvolti, si poteva intendere che c'era qualcosa che non tornava. Da questo punto di vista sì, c'è un altro parallelismo che io farei in qualche modo, e questo riguarderebbe l'aspetto giudiziario, qualora ci sia fondamento. Su questo, secondo me, mi ricorderà un pochino la vicenda Enimont del 92. E quindi se fossero dimostrate anche operazioni con finalità di tangenti, per chi non si ricordasse Enimont, la madre di tutte le tangenti. Allora, faccia i nomi Barisoni, ma cosa volete che dica? Ma ve lo ricordate tutti che era De Bustis, no? Il numero 1 di Banca 121, Banca del Salento, poi nato in Monte dei Paschi, sulla Banca Agricola Mantovana, sì, da lì veniva Colaninno. a chi scrive personaggi vicini ad D'Alema, non lo so, non mi interessa la parte politica. Perché? Perché scrivete così? Perché è certo che qualcosa non ha funzionato, o come direbbe Besozzi, quello che è certo è che la banca qualcuno se l'è spolpata, questo lo possiamo dire. Tutto il resto lo chiarirà la magistratura, sì, ma continuano a uscire varie e varie dichiarazioni. E poi c'è il ministro dell'economia Grilli che fa il pompiere, andava tutto bene, i controlli ci sono stati, non c'è nessun commissariamento, c'è solo un monitoraggio, vabbè. Sentiremo Profumo questa sera a Ballarò, visto che dice non è da escludersi la nazionalizzazione in via ipotetica. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.